GR24, il sole 24 ore. Emilia, la terra continua a tremare, tre forti terremoti nella notte. Brindisi, oggi funerali di Stato per Melissa. Ballottaggi, affluenza flop, calo di 11 punti. È morto Robin Gibb, fondatore del gruppo dei Bee Gees. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi. È proseguito nella notte lo sciame sismico successivo al terremoto di magnitudo 5.9 che alle 4.03 di ieri ha colpito la pianura padana emiliana, provocando la morte di 7 persone, migliaia di sfollati e numerosi crolli di edifici. In diretta per tutti gli aggiornamenti, Irene Privitera, buongiorno. Sì, buongiorno Adriana, hai detto 7 morti, decine di feriti, 4.000 sfollati, sono questi i numeri del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna e sono ormai tristemente noti. Dietro i numeri, come sempre però, ci sono storie e persone, come quelle di chi questa notte ha dormito fuori dalla propria casa nel comune di Sant'Agostino, nel Ferrarese, più colpito in fatto di vittime, perché la propria casa risulta inagibile, ma anche semplicemente per paura, tutti insieme accolti all'interno di strutture improvvisate, anche soltanto per condividere sensazioni e timori. 250 persone, fra cui il sindaco, racconta un collega della Nuova Ferrara, hanno dormito nel Palareno, palazzetto dello sport del piccolo comune. Brandine, coperte, una bevanda calda e la notte è passata piuttosto tranquilla, nonostante la paura per le scosse, soprattutto quando la terra ha tremato intorno all'una del mattino. Sono soprattutto famiglie con bambini, ma anche anziani, che di terremoti in pianura padana non ne avevano mai sentiti, mai viste cose così, ha detto una signora. Certe scene piuttosto ci riportano alla memoria alla Seconda Guerra Mondiale. I più provati sono i cittadini di San Carlo, frazione di Sant'Agostino, interessata ieri da una perdita di gas, per cui 100 famiglie sono rimaste temporaneamente senza fornitura di gas, appunto luce e acqua. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha sottolineato che a partire dalla scossa di domenica notte lo sciame sismico ne ha compreso in tutto 170, due di magnitudo superiore a 5, 8 con magnitudo tra 4 e 5, 37 comprese tra i 3 e i 4 gradi della scala Richter. Per adesso da Ferrara vi restituisco la linea. Grazie ad Irene Privitera. Un terremoto di magnitudo superiore a 5.4 era atteso tra il 1 marzo e il 1 settembre del 2012 con epicentro tra Ferrara e Parma. Lo avevano previsto i sismologi dell'Università di Trieste e del Centro di Fisica Teorica di Miramare, che nel 98 hanno avviato uno studio per prevedere i terremoti, anche se non con precisione. Sentiamo al microfono di Katia Caramelli Giuliano Panza, professore di sismologia. Il nostro progetto è cominciato circa 20 anni fa. Gli obiettivi sono quelli di riuscire a dare delle indicazioni riproducibili, statisticamente significative, sulla possibilità di prevedere i terremoti, ma con bassa precisione. Cioè, il messaggio che noi vogliamo mandare è che bisogna passare dall'affermazione tout court, i terremoti non si possono prevedere, a un'affermazione leggermente più articolata, dicendo che i terremoti non si possono prevedere con precisione. Non si arriverà, penso mai, oggi sicuramente no, ma penso che anche in futuro sia molto difficile poter arrivare alle condizioni di allarme rosso, ovvero evacuazioni e cose di questo tipo. Questo non penso sarà mai possibile, però mi posso sbagliare. Esiste una serie di misure che possono essere fatte, è un elenco, non è che possiamo adesso dirne qualcuna, perché quell'elenco è un elenco che ha senso in quanto fatto sequenzialmente secondo certe regole. Noi diamo una serie di indicazioni, poi chi deve fare le cose deciderà se sono accettabili, non accettabili, implementabili. Nel caso specifico, voi che cosa avevate previsto? Era stata allarmata una zona grande per un tempo di circa un anno, il 1 marzo. Un'altra polemica riguarda le mappe sismiche della pianura padana. Sentiamo Gian Michele Calvi, docente di ingegneria sismica allo IUS di Pavia e presidente della Fondazione Eucentra. L'Italia è tutta sismica, dall'ordinanza 3274 del 2003, quindi è una zona sismica. È una zona sismica, fra l'altro, che si trova in un punto in prossimità di zone in cui ci sono stati terremoti nel passato, non ignota anche prima del 2003. Basti ricordare che nel 1570 ci fu un terremoto molto famoso a Ferrara, su cui furono pubblicati anche dei trattati ben noti a chi si occupa di queste cose. Fino al 2003 esistevano le zone di prima, di seconda e di terza categoria e le zone non classificate. Dal 2003 ci sono le zone, le zona 1, la zona 2, la zona 3 e la zona 4. La zona 4 è una zona che ha una sismicità più bassa, ma tuttavia che ha una sismicità. Oggi in Italia anche uno che progetti un edificio a Milano o a Varese deve tenere conto del fatto che esiste la possibilità che si risentano delle scosse sismiche. Quanto alle mappe di tutto, diciamo, il territorio, sono mappe attendibili, vanno aggiornate? Sono quanto di meglio la conoscenza attuale possa consentire di fare. In realtà io credo che il vero problema non vada tanto posto sul lato aggiorniamo le mappe, vada piuttosto posto sul fatto adeguiamo il costruito. Nella zona in cui c'è stato questo evento, ma anche se vuole in pianura padana, veniamo da secoli in cui si è costruito senza tener conto in alcun modo del terremoto. E ora ci spostiamo a Brindisi. Oggi è il giorno dei funerali di Melissa, la studentessa uccisa nell'attentato contro la scuola Morvillo Falcone. In diretta il nostro inviato Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. I ministri dell'Interno Cancellieri, della Giustizia Severino e il prefetto di Brindisi Prete saranno loro a brevissimo a fare il punto sulle indagini in conferenza stampa al termine del vertice qui in prefettura a Brindisi. Vertice a cui hanno partecipato la Procura di Brindisi, la DDA di Lecce, i vertici di Polizia e Carabinieri. L'inchiesta potrebbe essere comunque ad un punto di svolta, data per buona, ma è tutta da dimostrare la tesi del gesto isolato. Si lavorerebbe alla caccia all'uomo ripreso dalla telecamera del chiosco davanti alla scuola e che avrebbe azionato a distanza l'ordigno. Mezza età, giacca scura, pantaloni chiari, scarpe da ginnastica. Si lavorerebbe anche sul mozzicone di sigaretta raccolto nei pressi e si spera che il DNA possa portare a qualche risultato. Al momento, sotto la lente di ingrandimento, vi sarebbero alcune persone che hanno lavorato per vari motivi all'interno dello stesso istituto o che hanno frequentato dei corsi serali. Alle 16.30 comunque si terranno nella vicina Mesagna i funerali di Melissa. Ci saranno tra gli altri il ministro dell'istruzione Profumo, il presidente della Camera Fini, dovrebbe partecipare anche il presidente del Consiglio Monti. E da Brindisi è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Cataldo Motta, procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dice che la pubblicazione del video potrebbe essere un danno per le indagini. Il fatto che sia stata una persona a compiere l'atto finale non esclude che dietro quella persona possano essercene altre e possa esserci una struttura organizzata. Certamente quel filmato che è stato pubblicizzato è un punto di partenza molto importante. Si tratterà di vedere se lo si individua, se si tratta di una, come dire, una persona da sola, che a mio avviso è difficile possa aver realizzato un attentato di quella entità, con quella mise en scène delle bombole, del cassonetto e di quant'altro, oppure si tratta di un'organizzazione, di un gruppo di persone. Far vedere questo video e questa immagine sui giornali per qualcuno è anche un danno, è quasi un vantaggio per la persona che è immortalata. È possibile, secondo me può danneggiare l'indagine l'averlo pubblicato, ma questo, ripeto, è una valutazione assolutamente personale. Esclude l'eventualità che possa trattarsi di schegge impazzite all'interno della Sacra Corona Unita Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, che ha indagato i rapporti tra Sacra Corona Unita e 'Ndrangheta. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Le mafie presenti in Puglia hanno risentito dell'influenza, diciamo, culturale sia della 'Ndrangheta che della Camorra. Ci sono stati spesso dei punti di contatto tra la Sacra Corona Unita e la 'Ndrangheta calabrese, soprattutto nell'interscambio di droga e armi. In strutture di questo genere così radicate sul territorio possono esserci delle schegge impazzite? Certo, le schegge impazzite ci possono essere dappertutto, però di solito quando c'è un'organizzazione criminale seria, strutturata, se c'è un pazzo il giorno dopo lo troveremo a terra, lo troveremo stesso a terra, due giorni dopo massimo. Una mafia organizzata non si può permettere il lusso di avere una scheggia impazzita nell'organizzazione o in giro. Quanto possono essere ancora, tra virgolette, vantaggiosi per le strutture criminali atti eclatanti? Io conosco molto bene la 'Ndrangheta, soprattutto l'elite della 'Ndrangheta. L'elite della 'Ndrangheta ha sempre insegnato che non conviene avere scontri con lo Stato. L'elite della 'Ndrangheta, ad esempio, ha sempre trovato accordi con uomini delle istituzioni. Non ha mai pensato o voluto lo scontro. Da oggi al 24 maggio Italia in controluce di Daniele Viachè si dedica alle edizioni delle 6.30 e delle 13.30 al ventennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la moglie di Falcone Francesca Morvillo e uomini e donne delle scorte. Il tema odierno è la trattativa tra Stato e mafia con il reportage di Raffaella Calandra. E ora in chiusura della prima parte del nostro GR diamo uno sguardo ai mercati finanziari con Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Buongiorno Adriana e agli ascoltatori. Le borse europee viaggiano in rialzo a metà seduta dopo una mattinata più volatile a causa delle continue preoccupazioni sulla crisi economica europea. Oggi ad aiutare i listini, ma senza enfasi né convinzione molto forte, c'è l'intenzione manifestata dai leader del G8 tenutosi nel weekend a Camp David di mantenere la Grecia nella zona euro. Vediamo cosa succede sui listini. Parigi segna più 0,86%, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,75%, Milano perde lo 0,6%. C'è però da segnalare che su Milano pesano i dividendi staccati oggi da 24 big delle aziende quotate nel principale paniere di Piazza Affari. Sarebbe uno stacco che vale per l'1,8% del peso del listino, quindi al netto di questa prestazione Milano sarebbe in rialzo di circa l'1,2%. In questo momento. Peraltro il mercato dopo Camp David si mette adesso in attesa del vertice straordinario dell'Eurogruppo fissato per dopodomani, per il 23 maggio. Euro su dollaro a 1,27,69, spread fra BTP e Bund questa mattina ancora oltre i 430 punti base. Per ora è tutto. Ben ritrovati da Adriana Fracchi. Anzitutto i titoli delle notizie principali. Emilia, la terra continua a tremare, tre forti terremoti nella notte. A Brindisi oggi funerali di Stato per Melissa. Ballottaggi, affluenza flop, calo di 11 punti. È morto Robin Gibb, fondatore del gruppo dei Bee Gees. In primo piano anzitutto il voto fino alle 15 per i ballottaggi. L'affluenza è in calo dell'11% a livello nazionale. Le sfide più importanti si tengono a Parma, Palermo, Monza e Genova. Non ha superato il 37% l'affluenza alle urne nella prima giornata di voto di questi ballottaggi, l'11% in meno rispetto a due settimane fa, una forte flessione se non addirittura un tracollo. Oggi si potrà votare fino alle 15, subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio. In tutto sono più di 4 milioni e mezzo gli italiani chiamati ad eleggere i sindaci di 118 comuni, 19 quelli capoluogo di provincia, a Palermo, Genova, L'Aquila e Parma le sfide più attese. Nel capoluogo siciliano sarà un testa a testa tutto all'interno del centro-sinistra fra Orlando, IDV e Ferranderli, sostenuto da PD e SEL. A Genova si scontrano Doria del centro-sinistra e Musso del terzo polo. All'Aquila il sindaco uscente, candidato del centro-sinistra, Cialente, se la vedrà invece con De Matteis, sostenuto da UDC, MPA, Verdi e Udeur. Infine Parma, dove è a contendere la poltrona di sindaco a Bernazzoli del centro-sinistra, è Pizzarotti del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi ricordiamo che Radio 24 dedicherà ai ballottaggi finestre nei giornali radio delle 15, delle 16 e delle 17, oltre che informazione in tutte le principali edizioni. Intanto una bomba a carta esplosa la scorsa notte all'interno di un cassonetto dei rifiuti nei pressi di un seggio elettorale a Rapallo, nella piazza del Comune, e un plico sospetto è stato invece trovato davanti ad un seggio elettorale di Sestri Ponente, in via Ursone, ma all'interno c'erano soltanto fogli di giornale. E ora andiamo negli USA, a Chicago, il 25esimo summit della NATO. I 28 paesi decidono sui progetti di difesa e sicurezza, tra cui lo scudo antimissilistico e i droni della base di Sigonella in Sicilia. Scontri e manifestazioni fuori dal Palazzo del Vertice. A Chicago migliaia di persone gridano contro la missione in Afghanistan, ma dentro Barack Obama non dà speranze, dall'Afghanistan non si esce. La missione va ancora alimentata ed è sui 100 milioni di euro il contributo italiano. Ma i 28 alleati al 25esimo summit della NATO si trovano anche a decidere su più di 20 progetti di sicurezza e cooperazione della Smart Defense. Tra i progetti approvati l'AGS, il sistema di sorveglianza con droni, gli aerei